Passiamo a Roma, in piazza dei Condottieri. Ci siete? Pronto? Ci siamo. Ciao, ciao. E abbiamo al telefono una delle degender del gruppo di Comunia. Siamo appunto in piazza, sentiamo gli interventi sotto. Ci puoi raccontare appunto dove siete, che sta succedendo? Allora, il corteo sta per partire, sono cominciati gli interventi dal camioncino adesso, perché siamo ancora qui a Piazza dei Condottieri, ci muoveremo verso Policlinico, passando per San Lorenzo, toccando un po' le varie realtà, anche i vari posti occupati di San Lorenzo che hanno permesso di far vivere la rete Io Decido, che è quella che ha dato avvio a questo corteo, diciamo. E niente, ci stiamo per muovere, ancora no. Senti, qual è lo striscione di apertura? Ce lo puoi dire? Ancora non ci siamo sistemate, però lo slogan della campagna è Io Decido, che abbiamo rigirato sotto varie forme. Sul camioncino abbiamo lo striscione sull'aborto, che recita aborto clandestino, profitto di milioni. E questa la morale di preti e padroni. Ora non so. Bene, grazie. E poi senti, ci sono già molte donne, si sta disponendo il corteo? Beh sì, ci sono donne, uomini, transessuali, è un corteo molto misto e per ora pure molto partecipato. Ci sono migranti, ci sono tutte le varie realtà sociali. Ascolta, so che ieri avete fatto una iniziativa, la seconda, insomma, dopo quella dell'occupazione della sede dell'Ordine dei Medici, ieri c'è stata un'altra azione in città. C'è stata azione in una farmacia qui a Pigneto, è stato chiesto di acquistare la pillola contraccettiva d'emergenza, il farmacista si è rifiutato di venderla perché è comune nelle varie farmacie, almeno qui a Roma capita spesso che i farmacisti si rifiutino di vendere la pillola proprio dicendo che non ce l'hanno a disposizione, cioè propongono di ordinarla ma loro in farmacia dicono di non averla, quindi è stata fatta un'azione di questo tipo. E che avete fatto a quel punto, quando lui vi ha negato la pillola? Beh, siamo tornate dopo palesando la nostra identità e le nostre intenzioni di andare contro questo sistema, di rivendicare il nostro diritto a manifestare anche per questo, affinché queste cose non succedano più. Siamo andate in incognito, diciamo, e poi ci siamo presentate come gruppo di donne agguerrite contro questo tipo di azioni. Sì, in realtà le azioni che hanno preparato l'avvio del corteo, cioè il gruppo, la rete Io Decido, dai primi di febbraio ha proposto una serie di iniziative, anche incontri con compagnie spagnole, con medici che non praticano l'obiezione, appunto azioni tipo quella all'ordine dei medici, in farmacia, proprio in preparazione di questo corteo. Siamo per partire, a quanto pare. Abbiamo raccolto una serie di sensi, per cui in realtà la rete si è allargata sempre di più, e ora ci troviamo qui con un numero cospicuo di gente. Senti. E soprattutto abbiamo lanciato, a quanto pare, una volontà di manifestare anche in altre parti d'Italia, perché sappiamo che non solo a Roma No, certo, noi ora ci collegheremo con molte piazze italiane e nel mondo anche. Senti, prima di chiudere volevamo con te sottolineare come dire, delle scelte che sono state fatte per questo 8 marzo, abbiamo letto insomma i comunicati che sono usciti e diciamo che le parole d'ordine, le riflessioni, le parole che sono in questi comunicati nella manifestazione di Roma, diciamo che comincia appunto dicendo tradizionalmente l'8 marzo scende in campo con certi temi, invece quest'anno ne portiamo anche altri, quindi ti volevamo chiedere semplicemente come è nato questo percorso, ecco. Sì, sì, perché quando, diciamo, quando abbiamo chiamato la prima assemblea di lancio di che era, non aveva pensato proprio alla nascita di Rete Cittadina. Diciamo che nelle nostre intenzioni il corto dell'8 marzo era qualcosa di auspicabile, però appunto abbiamo cominciato chiedendoci come dovesse essere un corteo dell'8 marzo adesso, che senso avesse fare collettivi femministi, perché non di genere. Infatti pian piano, assemblea dopo assemblea, per cui le realtà cittadine che si sommavano a... cioè gli interventi delle varie cittadine che si aggiungevano nel corso della costruzione hanno proprio fatto emergere la necessità di rivendicare la diversità delle realtà umane, diciamo, cioè del genere, dei vari generi, affinché il genere fosse una nuova necessità, scardinasse la dinamica per cui donne, uomini, qualcosa di così imposto, di così rigido, ma si rimettesse in discussione proprio la questione di genere, ecco. Per cui adesso ci ritroviamo con un corteo effettivamente e realmente partecipato da chiunque. Perché di fatto obiettivo. Noi siamo per la distruzione dei generi, questo è vero, e quindi a questo punto ti ringraziamo, ci sentiremo. Vuoi dire qualcosa? Anche perché stiamo partendo. State partendo, ecco, allora intanto diamo l'informazione che il corteo sta partendo. Il corteo sta partendo. L'appuntamento è quello di Piazza dei Condottieri. Esatto, chi volesse raggiungerci fa ancora in tempo ad arrivare a Piazza dei Condottieri. Ci stiamo sistemando adesso. Poi attraverserete i spostamenti. L'obiettivo finale è il Policlinico. Quindi ci risentiremo più avanti, insomma, durante le varie i vari passaggi di questo corteo. Intanto ti ringraziamo. Di niente, grazie a voi. Ciao.